Casoni. Minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente, come già vi ricordavano i nostri GR24, torneremo a occuparci del Monte dei Paschi, da un lato sia per la decisione del Parlamento, nel senso che i 20 miliardi a questo punto, anche se sarà uno scostamento piccolo e temporaneo, come scrive oggi Sole 24 Ore, per aggirare i possibili rilievi dell'Unione Europea, perché il debito va a aumentare dell'1,2%, ma i 20 miliardi ci sono per operazioni sul settore bancario a partire dal Monte dei Paschi. Il Parlamento ha approvato la richiesta di autorizzazione del governo di un ulteriore indebitamento appunto per altri 20 miliardi, quale misura precauzionale per garantire eventuali interventi di sostegno alle banche. Quindi il governo ha a questo punto la disponibilità e vedremo come la userà, a partire proprio dal Monte dei Paschi di Siena, il quale oggi va molto male in borsa, perde il 10% a 16,68 euro, è a minimi storici. Tra l'altro sappiamo che l'abbiamo riferito, il titolo, il gruppo ha detto di avere liquidità per non più di 4 mesi e non più 11 mesi come precedentemente comunicato. Ma la cosa importante è che la conversione volontaria delle obbligazioni subordinate ha raggiunto i 500 milioni di euro. L'operazione si è chiusa oggi alle 14, quindi siamo a un decimo sostanzialmente di quanto si immaginava di poter raccogliere. E questa era la parte dedicata ai privati. Domani si chiude la parte riservata agli investitori istituzionali, ma insomma è abbastanza chiaro che non basterà l'atto volontario per trovare i soldi per l'aumento di capitale. A questo punto ci si attende il decreto del governo, che arriverà probabilmente o domani o venerdì. Tra l'altro il fondo appunto avrà come primo compito quello di una ricapitalizzazione precauzionale del Monte dei Paschi, visto che ormai è molto probabile che fallisca il ricorso ai mercati, ma nell'orizzonte, nell'obiettivo del fondo, anche Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Cassa di Risparmio di Genova. Come già spiegavamo ieri, non dovrebbero invece essere utilizzati questi soldi per le quattro good bank, quindi Popolare Etruria, Nuova Banca Marche, Cari Ferrara e Cari Chieti, che tra l'altro finirà molto probabilmente sotto controllo di UbiBanca. E questo è il fronte banche che affronteremo dopo le 18. Visto che citavo però il titolo in borsa, cito anche altri titoli: Saipem -2,5, Italgas -2,20, Unipol -1,40, Recordati -1,20. Chi va bene? Mediaset, e anche questo sarà tema di oggi, +3,20%, UbiBanca +2,25%, Fineco Bank +1,70%, Ferragamo +0,80%. Mediaset. Allora, su Mediaset ieri gli ultimi aggiornamenti, quindi sostanzialmente il fatto che Bolloré e Vivendi sia salita al 25,7% e ha incrementato di quasi 6% la sua partecipazione, in realtà il diritto di voto è quasi al 27%. Esposto ieri in serata di Mediaset alla GCOM, all'Authority sulle comunicazioni, in cui segnala la presunta illegittimità del comportamento di Vivendi anche alla luce del 24% che ha in Telecom Italia, la doppia partecipazione in Mediaset e in Telecom potrebbe essere di ostacolo alle strategie di sviluppo della società. Come spiegavamo anche ieri, essendo Fininvest deve restare al 38,2%, perché ha già usufruito della possibilità di incrementare la quota del 5% senza lanciare un'OPA, a questo punto il problema è molto semplice: la minoranza di blocco è una minoranza di blocco pesante, è praticamente impossibile che il Fininvest, pur rimanendo l'azionista di maggioranza relativa, possa decidere operazioni straordinarie quando tu hai un socio che ha quasi il 30%, perché probabilmente oggi arrotonderà ulteriormente la quota, lo sapremo a mercato chiuso. Ma insomma, se hai il 26,7% di diritti di voto e dovessi arrivare a 29,9, siccome ci vogliono i due terzi dei voti per convocare assemblee straordinarie per decidere operazioni straordinarie, per esempio l'accordo con un gruppo, la fusione, una joint venture, vorrebbe dire che Mediaset dovrebbe trovare tutti gli altri azionisti, tutti i voti degli altri azionisti per riuscire a, ossia del 70,1%, avendo lei solo il 38%, per riuscire a convocare un'assemblea straordinaria, cioè dovrebbe prenderli praticamente tutti, perché se Vivendi fosse contraria col 29,9, gli altri devono trovare i due terzi dell'assemblea, per cui diventa un'operazione di fatto impossibile con il 38. Questo vuol dire bloccare poi la gestione non ordinaria di Mediaset se non si raggiunge un accordo con Vivendi, ma come spiegavamo ieri, in questo momento un accordo con Vivendi diventa delicatissimo, perché può scattare in ogni momento, addirittura si diceva nemmeno una telefonata, l'ipotesi di concerto, cioè venisse dimostrato che Vivendi e Mediaset si mettono d'accordo nella gestione di Vivendi e Fininvest, scusatemi, si mettono d'accordo nella gestione di Mediaset, allora sarebbero obbligate a lanciare un'offerta pubblica su tutte le azioni Mediaset, perché sarebbe un concerto e quindi di fatto i due avrebbero superato la soglia dell'OPA e dovrebbero lanciare un'OPA su tutto il resto. Una situazione parecchio complicata. Il titolo, ripeto, guadagna il 3,15%, complessivamente Milano perde lo 0,25%, Parigi meno 0,50%, Francoforte invariata e Londra meno 0,20%, Dow Jones invariato anch'esso. Per quello che riguarda l'euro su dollaro siamo a 1,04, 349 238 6666 per SMS e WhatsApp. Partiremo parlando di un'altra operazione Francia su Italia, l'abbiamo annunciata ieri, poi avevamo altri temi, operazione che riguarda il mondo del vino, sono due piccole operazioni come diciamo ammontare economico, però in realtà sono operazioni importanti, ne parliamo volentieri anche sotto Natale. Una è Francia su Italia, l'altra è invece Italia su Italia, mi riferisco a Terra Moretti che acquista il gruppo sardo Sella e Mosca comprandolo dalla Campari. Che cede appunto la partecipazione. Andiamo rapidamente sulle altre notizie in breve. Come sempre partiamo dalle notizie di carattere internazionale. Petrolio a $53.50 al barile. Per quello che riguarda il gruppo Twitter, continua la fuga da Twitter. Addirittura il numero uno della parte tecnologica, il Chief Technology Officer, lascia la società e segue la sua uscita quella di Adam Bain, che era il Chief Operating Officer. E molti stanno iniziando a avanzare dubbi sulla stabilità di Twitter dopo anche il naufragio del tentativo di fondersi con Salesforce. E arriva una nuova tegola per le banche, ma questa volta banche spagnole, e mi riferisco al fatto che le banche spagnole potranno essere chiamate a restituire fra i 5 e i 7 miliardi e mezzo di euro ai propri clienti che avevano sottoscritto mutui con clausole di tasso minimo. La Corte di Giustizia Europea infatti ha dichiarato incompatibile con il diritto dell'Unione la decisione del 2013 del Tribunale Supremo Spagnolo, che aveva sostanzialmente deciso di limitare nel tempo gli effetti della nullità, facendo produrre effetti solo per il futuro. Allora, le stime, vedo che alcuni mi scrivono sia su Mediaset che su Monte dei Paschi. Allora, sì, sappiamo che i due terzi sono il 66,6%, non il 70,1%. Era per far capire che se tu volessi essere sicuro di andare in assemblea su un'operazione straordinaria, nel caso di Mediaset, hai bisogno di due terzi, cioè del 66,6%. Degli azionisti, pur avendo tu solo il 38% delle azioni, e quindi diventa una fatica di Sisifo, e per essere sicuro che tutto passi tranquillo dovresti arrivare vicino al 70%, è praticamente impossibile. Mentre sul Monte dei Paschi le prime stime, è vero che citano 1 miliardo la parte di raccolta con la seconda tranche di conversione dei bond subordinati. I 500 milioni erano riferiti alla parte che riguarda soprattutto il retail, cioè quella che è terminata oggi alle 14, quella dei risparmiatori. Comunque, sugli sviluppi della situazione del Monte dei Paschi di Siena si concentrano i 100 secondi di Radio 24, oggi a cura del vice direttore del Sole 24 Ore Alessandro Platerotti. Ricordo che sono trasmessi anche su RDS. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alessandro Platerotti. Avrebbe dovuto essere la linea del Piave, ma purtroppo sembra rivelarsi una Caporetto. Il caso del Monte dei Paschi di Siena continua a tenere alta l'attenzione non soltanto sulla banca senese, ma su tutto il mercato finanziario italiano e in parte anche su quello bancario europeo. Incognite, bail-in, non bail-in, salvataggio di Stato, in quale misura? L'Italia in questo momento sembra essere il banco di prova della nuova ristrutturazione del sistema bancario europeo e soprattutto dei possibili strumenti di salvataggio che gli Stati hanno ancora a disposizione dopo avvento delle risoluzioni bancarie. Quale sarà l'esito della partita è difficile dirsi, soprattutto quale sarà il danno che pagheranno gli azionisti e insieme il Paese. Il fatto di non poter mandare in porto un aumento di capitale, tutto sommato modesto, stiamo parlando di 5 miliardi, di cui una buona parte sarebbe venuta da una conversione di obbligazioni, certamente conferma non soltanto la diffidenza nei confronti di una banca che ormai da troppi anni vive alla giornata, ma nei confronti di un mercato finanziario come quello italiano, purtroppo ancora privo di azionisti. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, proprio sul tema Monte dei Paschi, adesso vedo l'ultima agenzia, passato di mano oltre il 10% del capitale, quindi è seduta particolarmente intensa, oltre che tesa. Ricordo che il titolo è stato più volte sospeso per eccesso di ribasso, era arrivato al minimo storico di 15 euro per azione, adesso si avvia a chiudere in calo dell'11,30% a 16,48 euro, l'ultimo prezzo che vedo, ripeto, sulla conversione, le ultime stime sono di un miliardo, includendo anche la conversione della parte retail, visto che gli istituzionali hanno tempo fino a domani. E comunque ne parleremo tra poco, così come parleremo anche di Mediaset. Andiamo avanti con invece le altre notizie, questa volta sull'Italia. Per quello che riguarda il ministro Poletti, è stata depositata questa mattina al Senato la mozione di sfiducia firmata dai senatori di Sinistra Italiana, del Movimento 5 Stelle, della Lega e alcuni senatori del gruppo Misto. Nelle ultime settimane si legge nella mozione: il ministro ha dato riprova di un comportamento totalmente inadeguato al suo ruolo, esprimendosi in più di un'occasione con un linguaggio discutibile e opinioni del tutto inaccettabili. Già ieri abbiamo avuto modo di dire di stare molto attenti a queste frasi, citavamo casi del passato quando si parla dei giovani, ma non perché sia sbagliato criticare, ci mancherebbe, lo facciamo anche noi qui, alcune scelte dei giovani, delle volte un eccesso di lassismo, ma con la situazione che c'è fuori, quando tu hai un ruolo di governo non sei un normale cittadino che sta esprimendo una sua valutazione sui NEET, sui giovani che non studiano e non lavorano o sui giovani che vanno all'estero. Hai la responsabilità anche di una situazione economica, o ti viene attribuita comunque, che è ancora imballata, e siccome per un anno e mezzo il governo precedente ha continuato a raccontare che la situazione aveva svoltato e poi i numeri non andavano necessariamente in tal senso, la frase che poi lui ha corretto, ma la frase l'ha detta, alcuni giovani è meglio che siano fuggiti, non ne sentiremo la mancanza. È ovvio che poi ti tirano fuori, ma questo avviene per tutti ed era abbastanza immaginabile. Beh, che fa tuo figlio? È andato all'estero o è rimasto in Italia? Allora poi scopriamo che il figlio del ministro Manuel Poletti ha 42 anni, è giornalista professionista da 5 anni, è direttore del settimanale della provincia di Ravenna, 7 Serequi. Non capisco il tema, è una colpa mia, 2 redazioni, 5.000 copie vendute a settimana, e presiede anche la società editrice cooperativa che in 3 anni ha ricevuto 500.000 euro di contributi pubblici e quindi secondo Manuel Poletti poi il governo Renzi ha ridotto sensibilmente i fondi per l'editoria, mettendo in serie difficoltà anche il suo stipendio. Però ci si è infilato da solo Poletti in sta polemica, nessuno sarebbe mai venuto in mente di andare a vedere cosa faceva suo figlio se non si fosse messo a dire che di alcuni giovani era meglio che fossero andati all'estero, che nessuno sente la mancanza. Ma come ti viene in mente? Il Panfilo di Bertone, avete ragione, domani parliamo di Etruria e di questa operazione pazzesca sulla costruzione di 6 panfili, soldi poi in parte spariti, in parte girati a Bertone, domani ne parliamo. Anche perché, tornando al discorso di Poletti, oggi l'Istat ci fa sapere che l'indice delle retribuzioni contrattuali, orarie è aumentato del livello più basso rispetto al 1982, cioè l'aumento delle retribuzioni non è mai stato così basso, lo 0,5% rispetto al 2015. È vero, e va detto per completezza, che l'inflazione a novembre non era come nell'82, è un'inflazione praticamente inesistente, più 0,1% rispetto al 2015. Domani toccheremo anche il tema di Alitalia, la situazione è molto molto critica, out di Alitalia, le banche in un clima di varie riunioni dei consigli di amministrazione, addirittura rimbalzata l'ipotesi che James Hogan potesse uscire, lui è il numero uno di ETA, di vicepresidente del vettore italiano. Lo riporta il quotidiano Il Messaggero, segnalando anche che il presidente dell'Italia nel Montezemolo ha inviato nell'ultima ora una lettera ai capi azienda di Intesa San Paolo e di Unicredit nel duplice ruolo di principali azionisti, hanno il 20,60% San Paolo e il 13% Unicredit, ma anche di principali creditori dell'Italia, vantano crediti per 180 milioni. Ha scritto Montezemolo: la compagnia è a un passo dall'asfissia finanziaria, serve al più presto ossigeno per far fronte ad alcuni pagamenti, se in tempi strettissimi le banche non riapriranno il rubinetto all'Italia sarà costretta a portare i libri in tribunale. Venerdì ci occuperemo dell'ATAC, perché è uscito un libro sull'ATAC. Faccio notare che oggi si va verso il processo per 3 ex dirigenti della Municipalizzata dei Trasporti di Roma, l'ATAC appunto, e il titolare di una società, la Pragmata SRL, accusati di peculato per essersi appropriati tra 2007 e 2010 di 1.062.000 euro dalla Municipalizzata dei Trasporti. Vanno a giudizio quindi l'ex amministratore delegato Gioacchino Gabbuti, e oltre a Gabbuti, che era numero uno dell'ATAC dal 2005 al 2009 e anche di ATAC Patrimonio fino al 2013, anche gli ex manager Antonio Cassano, direttore operativo e direttore generale di ATAC dal 2005 al 2012, e Mauro Anselmi, sindaco del collegio sindacale di ATAC Patrimonio. Rinvia a giudizio anche per Umberto Bianchi, rappresentante legale e poi liquidatore della Pragmata. Insomma, l'illecita appropriazione secondo i PM sarebbe venuta attraverso la stipula di contratti di affidamento di consulenza e la disposizione di ordini di acquisto per attività di mera facciata con la società Pragmata SRL. E poi dagli accertamenti è emerso che il denaro sarebbe stato trasferito all'estero su conti correnti riconducibili, guarda un po', appunto ad ex manager di ATAC, che viaggia con il suo buco miliardario nel frattempo, lo dico perché. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Andiamo col primo tema, i francesi in Italia, sono già molto presenti i francesi in Italia. Abbiamo la lista delle operazioni, qualcuno le ricorderà: BNP Paribas nel 2006 che acquista BNL, Crédit Agricole nel 2007 acquista Cariparma e Popolare Friuladria, 2011 Lactalis acquista Parmalat, 2011 sempre Louis Vuitton Moët si acquista Bulgari e nel 2013 acquista Loro Piana, EDF acquista Edison, completa il controllo su Edison nel 2013 e dicembre 2016, ogni tanto ce lo dimentichiamo, Amundi, ossia Crédit Agricole, rileva Pioneer da Unicredit per 3 miliardi e mezzo di euro. E non è finita qui. Allora, posso chiedere, basta con Poletti, si è scusato, la battuta l'ho già fatta ieri, il tema della fuga dei cervelli è interessante scientificamente perché la fuga dei cervelli non colpisce mai la politica. Ci sono fior fior di equipe di scienziati che ragionano su questo, non colpisce neanche i giornalisti, così mi autofaccio la battuta. Ci sono alcune categorie in cui la fuga dei cervelli attecchisce meno. Aspettiamo l'Ancet che pubblichi uno studio apposito sul tema, va bene? Allora, praticamente chiusa, anche se tutto sarà definito a gennaio 2017, la trattativa per una nuova partnership in cui il gruppo francese Européen de Participation Industrielle, che ha marchi importantissimi nel settore dello champagne, penso a Charles Ansec, Piper Ansec, sesto marchio di champagne al mondo con 5 milioni e mezzo di bottiglie vendute, il vino Chateau La Verrier 250.000 bottiglie, possiede 9 marchi del lusso francese, tra cui le scarpe da lusso da uomo Weston, scarpe da lusso da donna François Pinet, Michel Perry, Bonpoint, insomma, è entrato con una quota molto importante, da quello che capisco io, di maggioranza, ma adesso lo chiederemo, in una nuova realtà, ossia nella tenuta del greppo di Jacopo Biondisanti, il Brunello di Montalcino. La prima bottiglia nel 1865 fu proprio una bottiglia della famiglia Biondisanti, quindi c'è anche un elemento molto, diciamo, simbolico, oltre che di operazione finanziaria. Ha acquistato la maggioranza nel cantiere di Biondisanti riconoscendo un valore di 107 milioni di euro, 40 volte le bite, è tanto, è un valore dal mondo del lusso a cui spesso il vino si associa, compresi anche i 152 ettari di vigneti di Montalcino. Biondisanti resterà presidente, però resta da capire ancora quali quote della famiglia verranno cedute e il perimetro dei vigneti dei beni immobiliari. C'era anche tra l'altro un pacchetto del 21-22% pignorato da Banca Monte dei Paschi in seguito a un mutuo da 7 milioni e mezzo acceso da Jacopo Biondisanti per l'azienda agricola Monte Po, controllata interamente da lui. E infatti io ringrazio Jacopo Biondisanti per averci raggiunto in collegamento. Buonasera. Buonasera. Adesso arriviamo alla calata dei francesi, sto scherzando, eh? Noi da sempre siamo... Non possiamo essere così schizofrenici che ci lamentiamo per metà anno che mancano gli investimenti stranieri e poi dire no, vengono a colonizzarci. Il problema è che lo facciano con le regole, questo vale più per Mediaset, con le regole che anche noi stessi utilizziamo. E dall'altro però segnala un'operazione sempre nel mondo vitivinicolo, siamo sotto Natale, insomma, immagino che i consumi andranno bene, visto quello che capita fuori, magari aumenteranno pure. La cantina Sada Selle Mosca, una delle principali nella Sardegna, storico gruppo, è stata acquistata da Terra Moretti in partnership con Simest e il fondo Nuo Capital Investment Company, che fa capo alla famiglia Cheng Pao di Hong Kong. 62 milioni di euro il valore dell'operazione, 100% del capitale acquistato dalla Campari. Vittorio Moretti, presidente di Holding Terra Moretti, buonasera anche a lei. Buonasera. Vi chiedo ancora 3 minuti di pazienza, ho il meteo e la pubblicità e poi cerchiamo di capire perché si fanno queste operazioni, ma il tema dello straniero interessa fino a un certo punto, mi interessa più perché si va a vendere per o andare a fare qualcos'altro nella vita, oppure si fa entrare un azionista o si compra per allargare il perimetro delle proprie attività. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. I have a dream that one day on the red hills in Georgia, sons of former slaves and the sons of former slaves, one day. Ah, andiamo di revival, sotto Natale. Bene. Sì, il sogno è fare pace col cervello in questo paese, visto che avete rispolverato I Have a Dream, e quindi decidiamo una volta per tutte se gli investimenti stranieri li vogliamo perché sono segni di un paese capace di attrarre investimenti e liquidità, oppure non li vogliamo perché tutto deve restare italiano, anche quando alle volte mancano i capitali italiani? Che è la prima domanda che vorrei fare a Jacopo Biondi Santi. Perché ha scelto un francese importante come gruppo, appunto, Européen de Participation Industrielle, e non ha cercato in casa nostra? Non è che delle volte un francese, uno straniero si preferisca, come fece, chi era, Ludovico il Moro, no? Nel chiamare aiuto dagli stranieri per le guerre interne? Dunque, qui al di là delle imprecisioni che sono state dette, perché non si parla assolutamente di maggioranze, non si parla di azienda in sofferenza, non si parla di 150 ettari, non si parla del fatto che io avevo delle problematiche finanziarie che erano mie personali, non capisco come mai se ne parli pubblicamente, ma comunque sono uscite sui giornali, sono uscite sui giornali da giornalisti che non si formano, da giornalisti che hanno un pochino la penna troppo libera, bisognerebbe dargli che facciamo? Un pochino, blocchiamo la penna e come li sistemiamo? Esatto, perché non si possono dire fesserie. Comunque, esiste l'istituto della Biondi Santi, esiste l'istituto della querela. Attenzione, esatto, infatti. L'unico, in una democrazia è l'unico modo per sistemare i giornalisti. Lo farò. Comunque, al di là di questo, io ho un progetto che ho portato avanti da quasi 2 anni e che purtroppo viene da una bisogno dell'azienda, perché quando ci sono dei passaggi generazionali le aziende in Italia si trovano in difficoltà, come all'estero, però soprattutto in Italia. E quindi diciamo che questa è la prima ragione per cui poi avevo bisogno di uscire da un confine di azienda piccola per arrivare a un'azienda più grossa, e quindi ad avere altri obiettivi sui mercati che non il mercato italiano e pochi altri mercati esteri. E questo chiaramente è un discorso molto difficile sulle aziende piccole, perché devono ricapitalizzarsi, eccetera eccetera. Quindi io ho fatto una scelta precisa di far entrare un partner per poter usufruire di tante cose che può darmi questo partner, ovvero reti commerciali più larghe, più grandi, più impostate, più seguite, eccetera eccetera, che hanno delle capacità finanziarie di assorbimento di costi commerciali che sono per un'azienda piccola, chiaramente, che si globalizza è una brutta parola, no, ma che diventa globale. Perché non ha cercato anche tra gli italiani? Certo che ho cercato anche tra gli italiani, ma perché secondo me è un altro tema, mi scusi Biondi Santi, è che spesso noi invochiamo perché passa in mani, ma ragazzi, in molte delle operazioni che io ricordavo prima nel settore moda, penso a Bulgari e l'Europiana in primis, non si trovavano offerenti italiani, per cui bisogna stare attenti. Infatti anche qui non ci sono trovati offerenti italiani, e soprattutto non ci sono mezzi, chiamiamoli pubblici, per aiutare le aziende a uscire dal loro grado e allargarsi e diventare più incisive sul mercato, come fanno le aziende francesi, perché lei sa benissimo che ci sono aziende italiane che oggi addirittura pagano la Sopexa francese per fargli la promozione, quindi non si usa l'ISCE, ma si va a cercare la promozione all'estero da dei professionisti che sono forse più organizzati e meglio impostati di noi, che hanno forse anche una grossa esperienza più importante però di noi, che Santi, parte io volevo, più da lontano. Volevo fare una seconda domanda e poi passare anche a Moretti, però a me il tema della partecipazione dello Stato interessa molto poco, perché le operazioni che citavo hanno sempre valorizzato, nel senso che lo straniero non è mica con l'anello al naso, mette i soldi, mette i soldi perché vuole valorizzare l'investimento, e così succede. Infatti devo dire che sia l'Europiana che Bulgari, che tutti sono state. Non c'è dubbio. Però allora lei come farà a sapere? Quelle acquisizioni, questa non è un'acquisizione. Ma lei come farà a sapere che i soldi? Va bene, lo abbiamo capito. Però come farà a sapere che i soldi dei francesi serviranno veramente a valorizzare ancora di più la rete commerciale del suo vino, quindi immagino il Brunello che la parte Montepo. Prego. Certo, giustissimo la domanda. Io rimango presidente di tutto quanto, rimango enologo di tutto quanto, e dopo di me i miei figli, quindi poi ci sarà una partecipazione azionaria che un domani che io dovessi mancare chiaramente sarà divisa fra i figli, e quello che avrà le capacità per continuare, continuerà, capisce? Però indipendentemente dai ma soldi. Le faccio un esempio, ma se lei domani, ma se i francesi dicessero no, noi vogliamo spingere più sul nostro champagne e meno sul suo Brunello. Perché questo non succede, perché la rete commerciale resta la mia, viene, si appoggia alla rete commerciale loro, ne ha i vantaggi e dà anche i suoi vantaggi, perché insomma non è che la nostra rete commerciale sia una roba da buttare via, o quantomeno abbiamo una penetrazione di marchio che forse fa comodo anche a loro, quindi se no non. Però lei mi sta dicendo che lei ha cercato discorso anche degli italiani, così chiudo il tema che mi appassiona poco. Esatto. Ma nessuno si è palesato, diciamo, nessuno. Non è forza. Vero che nessuno si è palesato, non sono andate avanti le trattative nel corso del tempo, e poi anche le istituzioni che dovevano, che io avevo contattato, fra cui istituzioni importanti italiane, sto parlando di banche, non avevano ancora forse la capacità di capire che cosa significa fare merchant bank invece che fare la banca del mattone, come succede oggi in Italia. Quindi sì, oddio, lei, certo, lei aveva comunque anche la sua esposizione con Monte dei Paschi sull'altro fronte. Detto questo, non c'entra niente, perché l'esposizione del Monte dei Paschi era un mutuo su un'azienda che vale una quarantina di volte il mutuo acceso, per cui quello è un altro ragionamento. E poi è andata nei problemi per altre ragioni che sono state storiche e che dipendono forse da un discorso interno di famiglia invece che dall'esterno. Quindi dentro la sua famiglia non è questo, ecco, no, vabbè, è questo, però siccome parliamo di affari, dentro la sua famiglia si litigava, questo non è un mistero. Allora Moretti, su questo lei ha fatto un'operazione un po' diversa, perché per comprare Selle Mosca per 62 milioni di euro, il 100% del capitale, vi siete appoggiati da un lato a Simest e dall'altro al fondo Nuo Capital Investment Company della famiglia Cheng Pao di Hong Kong, ma quella che si chiama governance, cioè chi decide poi? La governance è nostra, assolutamente. Comunque le spiego, noi avevamo bisogno di crescere come azienda vinicola e si è presentata questa operazione in funzione del fatto che io sono molto in amicizia con la Campari. Mi hanno proposto questa cosa, non riuscivamo a farla con i nostri mezzi, chiaramente, perché era una cosa un po' grande per noi, quindi abbiamo deciso di far entrare un socio nella nostra commerciale per sviluppare anche tutto quello che è la parte diciamo di marketing commerciale in Oriente, che noi, di cui noi abbiamo necessità. Quindi abbiamo fatto l'operazione con Simest, era già il nostro partner in un'altra situazione, ha ampliato la sua partecipazione con noi e quindi siamo riusciti a fare questa cosa, che è una cosa che riteniamo molto bella e che ci dà la possibilità di incrementare il nostro fatturato immediatamente. Mi scusi, però Moretti, non ho capito una cosa, ma la Capital Investment Company, cioè la famiglia Cheng Pao di Hong Kong, che è una famiglia molto liquida, mettiamola così, vi serve solo per commercializzare Selle Mosca nei mercati asiatici, o averla tirata dentro vi permetterà di commercializzare anche noi abbiamo un'azienda commerciale che è Terra Moretti Distribuzione e No, nel senso che voi producete lì, lo dico tutti, capital, in Francia Corta è entrata in questa commerciale al 30%. Chiaramente la governance nostra, noi portiamo avanti con i nostri, condivideremo con loro tutto quello che sono i progetti, tutto quello che è la situazione di sviluppo, però noi siamo noi che gestiamo la situazione. Perché voi avete la Siemens che è entrata col 20% quasi in Terra Moretti Distribuzione per 6 milioni. No. La Siemens è entrata in Terra Moretti S.P.A. S.P.A., ok. La nostra azienda di base che detiene tutto quel e invece il patrimonio. Hong Kong, per capirci, è entrata in Terra Moretti Distribuzione, ho capito bene? Esatto. Ok. Voi producete Conti Castaldi, Bella Vista, insomma avete anche, tra l'altro, per chi fosse interessato, anche la Beretta di Augusto. Distribuisce tutti i marchi, ma Terra Moretti Distribuzione ha in pancia Contadi Castaldi, perché è un'azienda diciamo semicommerciale che produce un prodotto importante e comunque Quindi lei mi sta dicendo che però avete preso Selle Mosca perché ritenete lì non è la parte di commerciale Moretti, la parte di prodotto vera e propria, ampliate l'offerta. Riteniamo che è un'azienda di grande qualità dove può sviluppare tanto il suo fatturato, perché è un'azienda che Campari non è riuscita a fare un determinato discorso che aveva in testa, forse per mancanza di uomini o per mancanza proprio di cultura nel fatto del vino, perché i liquori sono una cosa, il vino è un'altra. Quindi sono situazioni diverse che hanno bisogno di uomini che sappiano fare questo mestiere. Noi li abbiamo e quindi siamo convinti di fare bene e di crescere, e poi questa situazione servirà molto anche per la mia famiglia, per fare in modo che le mie figlie imparino a vivere in un mondo societario diverso, in un mondo come che oggi è di attualità, e quindi ma è chiaro. Bisogna che si apra la mente. Vorrei fare un'ultima domanda a Biondi Santi, poi anche lei, rapidissimi, perché devo andare sul traffico. Biondi Santi, le due operazioni sono diverse, anche diverse come obiettivo. Moretti puntava più sulla parte di commercializzazione, avere un nuovo prodotto in casa, appunto i vini sardi di Selle Mosca. Lei aveva bisogno di capitale per liquidare anche alcune quote e mantenere la solidità e l'espansione dell'azienda. Anche per la commercializzazione. E per la commercializzazione. Ma perché, voglio dire, il problema della commercializzazione è in questo momento l'imbuto, passatemi il termine, del mondo del vino? Nel senso, non esiste altro modo che non rivolgersi agli stranieri? Purtroppo sì, perché in Italia, allora faccio un esempio, se io vado negli Stati Uniti e spendo, mettiamo, 5.000 euro di viaggio e faccio una promozione di 3 giorni e ci va anche, che posso dire, non voglio dire nomi italiani, ci va Krug a fare la stessa promozione, spende sempre gli stessi 5.000 euro. I 5.000 euro miei sono ammortizzati su un fatturato piccolo e quelli di Krug magari sono ammortizzati in un fatturato che è migliaia di volte superiore, per cui a percentuale le mie spese commerciali incidono molto di più di quelle loro. Questo è il problema commerciale, cioè oggi il mondo è globale. Viaggiare, bisogna viaggiare, ci vuole un'organizzazione. Qui però allora il tema delle dimensioni riemerge. Esatto, allora, quello che ho detto prima, le aziende piccole che soffrono per diventare medie o le medie per diventare grosse. Ma lei esclude che le nostre aziende di vino italiane non si mettano assieme perché sta più sulle balle il vicino di vigneto che non un francese o un australiano o uno di Hong Kong? Ma avere il discorso qui bisogna un momentino staccarsi anche dai campanilismi. Lei non ha provato a dire faccia un accordo con il consorzio del Brunello, con un concorrente del Brunello, no? Ma assolutamente, ma non solo su questo, ma io avevo stimolato anche organizzazioni statali, ho cercato dappertutto e ci sono anche state delle idee politiche per poter arrivare a fare io lascerei fuori la politica dal vino, mi sembra che già lo utilizzino abbastanza, però Moretti, inteso come consumo, Moretti, è il problema della commercializzazione e quindi delle dimensioni, perché tutto questo ricorso poi anche nel caso suo in quote di minoranza, però abbiamo difficoltà a reggere appunto la globalizzazione anche in un settore che va benissimo, che non ha mai avuto la crisi neanche nel 2008, quello che volete, che è di moda, che aumenta i fatturati. E poi però lì è l'imbuto? Sì, sicuramente, cioè la commercializzazione è una cosa importante. Giustamente Biondi e Santi ha detto sacrosante parole: andando all'estero bisogna avere la possibilità di investire di più, per investire di più bisogna avere fatturato. Voglio sottolineare che noi abbiamo preso con Selle e Mosca anche Pierucci e Pudò, e nello stesso tempo abbiamo acquisito 700 ettari di vigna pura, abbiamo acquisito la più grande azienda d'Italia, il più grande vigneto d'Italia, e quindi questo è una cosa importante che ti darà la possibilità di crescere. Ma Moretti, devo veramente chiudere, ma non è possibile delle volte fare degli accordi tra italiani? Perché il mio sospetto nel vino, come in altri settori industriali, è che quando andate all'estero vi state, è più importante che non guadagni di più il tuo concorrente diretto in Italia che fare un accordo con lui che magari portava a beneficio per entrambi, no? Per noi era possibilissimo, però la famiglia di Hong Kong ci dà una grande mano sul mercato cinese e noi abbiamo bisogno assolutamente di andare lì. Okay. Poi non è che questo è un fondo, rimarrà per un po' di anni e poi decideremo. quindi non c'è nessun problema. Oh, in bocca al lupo a tutti e due, quindi a Jacopo Biondisanti per la nuova avventura con i francesi che sbarcano in Brunello. Questo non oso pensare che cosa abbia creato poi nei bar e nelle enoteche di Montalcino. Grazie anche al presidente Holding Terra Moretti, Vittorio Moretti. Traffico. Focus Economia. Io non mi sono mai occupato di queste cose e lascio Mediaset ai miei figli, che sono ben capaci di tutelare l'italianità di Mediaset. Oh, così oggi Silvio Berlusconi, ma Marco Mussanè, corrispondente del Sole 24 Ore da Parigi, buonasera. Buonasera a voi. Allora, andiamo subito al punto. Dove vuole arrivare Bolloré? Perché adesso stavo guardando le agenzie, è passato di mano un altro 6% del capitale oggi di Mediaset, che chiude in rialzo del 2,84%. Insomma, dove vuole, che voglia arrivare vicino al 30 l'ha già chiarito, ormai è vicinissimo, i diritti di voto sono al 27, secondo me oggi è arrivato lì 29,9. Molto probabile. Ma dove vuole arrivare nella, diciamo, in questa operazione? Perché a questo punto i due non si possono parlare perché scatta l'obbligo di OPA, perché sarebbe un concerto se Fininvest e Vivendi si mettessero d'accordo. La famiglia continua ad andare avanti con la parte degli avvocati, ieri ricorso alla GCOM sulla posizione che Bolorea sia in Mediaset che in Telecom Italia. Ma questo è il fronte Berlusconi che si sta difendendo. Ma lui dove vuole arrivare? Non penso che vada a rastrellare Mediaset così per il divertimento di rompere le uova nel paniere a Berlusconi, no? Ma senti, si possono fare ovviamente delle supposizioni. I suoi, diciamo, le fonti molto vicine a Bolloré, visto che Bolloré non parla, dicono che in realtà l'obiettivo è quello di esercitare il massimo di pressione possibile per costringere Berlusconi a sedersi al tavolo del negoziato. Con il 29,8%, insomma appena sotto la soglia dell'obbligo dell'OPA, di fatto Vivendi è in possesso della minoranza di blocco, anche se non tecnicamente, poiché però alle assemblee straordinarie non partecipa mai intero capitale, di fatto in possesso. Quindi ha la possibilità di paralizzare la società, almeno sulle grandi scelte strategiche. Quindi diventa un azionista del quale non si può fare a meno. Marco, questa, e se volesse... Allora, poi il tavolo negoziale. Al tavolo negoziale può accadere di tutto, questo dicono le persone, figure vicine a Bolloré. Per esempio, tu hai esordito dicendo i due non si possono mettere d'accordo, questa è un'azione di concerto, quindi ci sarebbe l'obbligo del lancio di un'OPA. Per esempio, questa è una opzione, una eventualità che Vivendi non esclude, cioè il fatto che i due soci diciamo importanti di Mediaset si accordino, lancino un'OPA congiunta sulla società. È una delle opzioni prese. Marco, scusa, in esame. Te credo che non lo esclude, perché in quel caso i soldi li avrebbe più Vivendi che Mediaset e andrebbero a riequilibrare l'orizzonte. E l'ipotesi che lui voglia sedersi a un tavolo per arrivare alla parte spagnola di Mediaset? Cioè dire, sapete che ci mettiamo un tavolo, tu mi cedi la tua parte spagnola, io esco da Mediaset, ti lascio gestire la parte italiana? Mi sembra difficile che Vivendi intenda rinunciare al mercato italiano. Il mercato italiano sul fronte della produzione e della distribuzione di contenuti è un mercato che ha delle grosse prospettive, e se è vero che il mercato spagnolo è sicuramente una priorità per Vivendi, lo è anche il mercato italiano. Quindi mi sembra difficile che rinunci al mercato italiano. Teniamo presente che questa è la versione Vivendi, ovviamente. Certo. Vivendi dice noi siamo più forti e abbiamo la possibilità di aspettare più a lungo, il tempo gioca a nostro favore. Mediaset ha dei problemi di redditività, ha dei problemi di strategia, dei problemi, e soprattutto non può rimanere a lungo da sola sul mercato della produzione dei contenuti, dell'integrazione, contenuti di distribuzione in fase di forte concentrazione. Marco, quindi, resta. Dimmi, quindi? Quindi a un certo punto dovranno trattare. Si è parlato, prendo dell'ipotesi di una cessione di Mediaset Premium a Sky. È evidente che con la minoranza di blocco Vivendi è in grado di impedire di bloccare qualunque operazione che non sia la gestione ordinaria. Marco, resta con noi perché mi interessa anche la posizione in Francia sulla vicenda, al di là delle dichiarazioni formali di Hollande. 349-238-6666 per sms e whatsapp. GR24. State ascoltando un programma offerto da Banca Mediolanum, costruite intorno a te. Focus Economia. Minuti, vorrei concludere l'approfondimento sulla vicenda, sul nuovo capitolo della vicenda Mediaset Vivendi, mentre appunto, ripeto, è stato scambiato il 6% del capitale, il titolo più 2,80%, la borsa la facciamo con gli approfondimenti oggi perché l'altra vicenda di borsa è Monte dei Paschi, meno 12% vicino ai minimi storici, li ha toccati già oggi. Comunque Marco Mussanè, l'ultimo tema che mi interessava, almeno per oggi, riguarda la posizione francese, ossia abbiamo visto che formalmente il governo francese ha detto ma non ci interessiamo di operatori privati, però insomma non sfugge a nessuno che Berlusconi non sia solo l'operatore privato nel mondo della televisione e dei media, sia anche il leader di uno dei partiti principali dell'opposizione, quindi la valenza politica. Come stanno affrontando i giornali francesi e complessivamente anche la classe politica francese che andrà verso elezioni, non che questo c'entri, ma immagino essere particolarmente sensibile a qualunque tema? Ma sul fronte politico non ci sono reazioni praticamente di alcun genere. Apparentemente i dirigenti politici ritengono che effettivamente si tratti di un'operazione da due società private, che quindi voglio dire in cui la politica non c'entra nulla, e comunque non la politica francese. Per quanto riguarda i giornali, direi che c'è un certo understatement, non viene dato grande risalto. Però se fosse capitato l'opposto, nel senso che noi abbiamo, e l'abbiamo spiegato molte volte, questa operazione, poi sullo sfondo c'è chi ragiona, chiaramente l'operazione su Telecom, perché Vivendi è il primo azionista di Telecom con 24%, e poi si ragiona sul fatto che la stessa Vivendi sia il secondo azionista di Mediobanc, il primo azionista è Unicredit guidato da un francese come Moustier, e Mediobanca è il primo azionista delle generali guidata da un francese come Donet. Tutto questo passa così in cavalleria? Beh, non lo so, adesso io non metterei insieme Unicredit. Non è che il fatto che Unicredit sia guidata da un francese ha a che fare con, come dire, l'offensiva di Bolloré su Mediaset. Te la giro in un altro modo, se avessimo fatto noi l'operazione in Francia così e avessimo posizioni... Evidente che sarebbe da parte delle autorità francesi una maggiore sensibilità, non c'è alcun dubbio. Teniamo presente, però forse meno su Vivendi che prendo su Telecom Italia, cioè nel senso che sicuramente la politica francese ritiene le telecomunicazioni un settore strategico, tant'è vero che lo Stato rimane il principale azionista di Orange, cioè l'ex France Telecom, cioè l'equivalente di Telecom, di come Telecom Italia in Francia. Effettivamente c'è da domandarsi come mai la politica italiana si sta scandalizzando su Mediaset e non si è scandalizzata su Telecom Italia, dove appunto Vivendi ha il 25% del principale azionista, cioè sostanzialmente l'azionista di controllo. Quindi non lo so, mi sembra che ci sia un po' di confusione anche sul fronte italiano. Io non lo so se il settore della produzione di contenuti e il settore televisivo è un settore strategico per il paese. Probabilmente le telecomunicazioni sì, e quindi la domanda che girerei io a voi è come mai non ci si è posti tutti questi problemi quando Vivendi ha preso il 25% di Telecom Italia? Questo dovete chiederlo all'ex governo Renzi. Ve lo giro perché magari è un tema di confronto, di battere, c'è chi dice che lì Renzi scommise a suo tempo sull'utilizzo di Enel per la fibra, certo. Oggi ci si pone tutti questi problemi sull'offensiva su Mediaset e non ci si è posti gli stessi problemi su Telecom Italia, che sicuramente è un settore più strategico rispetto a quello della produzione di contenuti. Guarda, l'abbiamo fatto notare molte volte, ricordo che a suo tempo nel confronto dialettico, quasi scontro, tra l'allora Presidente del Consiglio Renzi e i vertici di Telecom sulla digitalizzazione del paese, sulla fibra, Renzi usò Enel, dicendo va bene, la facciamo fare all'Enel se Telecom non ci vuole stare. Che ci sia stata, mettiamola così, una sottovalutazione, distrazione, non so se perché fosse il referendum l'unico obiettivo, questo non sono nella testa dell'ex governo, però questo è innegabile ed è uno dei motivi, sono d'accordo con te, della debolezza della posizione del governo adesso, perché non ti sei mosso per Telecom, che è sicuramente un settore strategico in mezzo mondo, le telecomunicazioni assieme all'energia e alla difesa, e ti muovi per media, se ti sospetto che, diciamo, sullo sfondo ci sia più un ragionamento di carattere politico per il ruolo che ha Berlusconi e non per l'azienda in sé, è un sospetto che non riuscirai mai a levare, visto come ti sei comportato come governo nei confronti di Telecom Italia. Marco, grazie, perché adesso passo all'altra saga, chiamiamola così, storia, capitoli di questo paese, e mi riferisco in queste settimane, mi riferisco al Monte dei Paschi di Siena. Ecco, non capisco il messaggio di chi mi scrive al 349-238-6666, Mediaset è ancora italiana al 100%. No, abbia pazienza, adesso di tutto possiamo ragionare, ma no. Bollorè, vedremo la comunicazione di stasera. Ieri era il 27% dei diritti di voto, abbiamo spiegato in tutti i modi che si chiama minoranza di blocco e, come ricordava prima anche Marco Mussanè, ti impedisce di fatto qualunque operazione straordinaria, anche la cessione di una quota per fare cassa, anche un accordo, una joint venture, tutte le operazioni straordinarie, cioè non la gestione ordinaria, vengono bloccate, perché se la minoranza di blocco non è d'accordo, è quasi impossibile che tu raggiunga i due terzi dei voti per indire un'assemblea straordinaria, ok? E poi varare l'operazione straordinaria. E basta, abbiamo fatto prima i conti. Vorrebbe dire andare a rastrellare tutti, praticamente i singoli azionisti, anche chi ha lo 01, 02... 0,3% di Mediaset, e fare in modo che tutti questi azionisti siano d'accordo nell'indire un'assemblea straordinaria, perché avendo l'altro di fatto arriverà al 29,9, ti basta che il 3-4% non sia d'accordo e tu non riesci a indirla. Allora, Monte dei Paschi di Siena invece, vediamo le ultime agenzie. Oggi passato di mano il 10% del capitale, il titolo perde nel finale il 12%, è arrivato al minimo storico di 15 euro per azione. Ad oggi manca una risposta del mercato all'offerta di azioni Monte dei Paschi sulla ricapitalizzazione della banca, quanto si apprende da fonti finanziarie. Gli investitori istituzionali avevano tra l'altro indicato come condizione una massiccia adesione delle conversioni e la presenza di investitori di peso, Qatar, ma non solo. L'offerta istituzionale si chiude domani, ma insomma anche quella sta raccogliendo pochissimo interesse, come la parte sui non istituzionali, quindi quella che si è chiusa oggi alle 14. Marco Ferrando del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. E ringrazio anche Dino Pesole, perché con lui vorrei affrontare il tema invece di 20 miliardi che il Parlamento ha dato via libera. Il governo ha questi soldi in questo fieno in cascina, serviranno per il Monte dei Paschi, ma anche per Pop Vicenza e Veneto Banca. E ringrazio e saluto anche Dino Pesole. Buonasera, Dino. Buonasera, buonasera. Marco, facciamo il punto della giornata. Domani si chiude quella per gli istituzionali, ma insomma, mi sembra che ormai insomma, così, il condizionale sia un dovere quasi deontologico, ma non più rispondente alla realtà dei fatti, no? Sì, non più fattuale, effettivamente. Come dicevi, oggi si chiudeva la finestra per la conversione dei bond in mano ai risparmiatori, finestra nuova, aggiuntiva, che si è aperta venerdì scorso. La banca non ha ancora comunicato quanto sarebbe stato convertito, pur virtualmente, sembra circa 1 miliardo, che di per sé non sarebbe pochissimo. Il problema, anche perché in totale c'erano circa 2 miliardi, il problema è che al momento sul piatto ci sarebbero solo questo miliardo e l'altro miliardo che sempre gli obbligazionisti istituzionali avevano messo a disposizione. Non dimentichiamo, da raccogliere ci sono 5 miliardi e condizione fondamentale, come accennavi prima, era la presenza di alcuni nuovi investitori di riferimento. In realtà pare che questi ultimi non ci siano, negli ultimi contatti delle ultime ore, in particolare col Qatar, su cui ancora ieri, inizio settimana, insomma, si basavano buona parte delle speranze. Scusami, ma si è capito perché il Qatar improvvisamente non è più interessato, perché prima si diceva vuole vedere come va il referendum, se vi sarà instabilità politica o no. Ora, tutto si può dire di questo governo, ma non che non sia arrivato in tempi relativamente brevi e che rappresenti un'instabilità politica, è in molti casi una fotocopia di quello precedente. Per cui cos'è che adesso blocca il Qatar? Bella domanda. Che il Qatar, così come tutti gli investitori esteri che operano su mercati e secondo culture un po' lontane dalla nostra, e sono sempre difficili da valutare. La vulgata degli ultimi mesi è stato che il Qatar nei mesi scorsi avesse trattato, diciamo così, politicamente con il governo Renzi per fare questa operazione in cambio anche di altre cose nell'ambito delle trattative che i fondi sovrani solitamente fanno. Come dicevi giustamente, uno dei passi decisivi era il referendum. In realtà il referendum è andato come sappiamo, però il governo nuovo è subito arrivato, sembrava che essendoci una certa continuità dal punto di vista del governo ed essendoci stata una reazione dei mercati meno terribile di quanto non ci si aspettasse, potesse rimanere questa la presenza di questo investitore. È chiaro che negli ultimi giorni, aumentando le probabilità di una presenza importante dello Stato nel capitale, è probabile che di fronte a questa possibilità il Qatar si sia sfilato. Diciamo che già si era visto ad esempio sugli aumenti delle popolari venete e dell'ex popolari venete della primavera scorsa, quando c'è un grande investitore destinato a finire l'aumento con il 30-40% in mano, all'epoca era Atlante, gli investitori si sfilano perché fare i portatori d'acqua per un altro grande investitore non piace a nessuno. Ripeto, il Qatar è un interlocutore difficile da capire. Senti Marco, nel salutarti, a questo punto domani si chiude anche formalmente la parte degli istituzionali, mancheranno all'appello più o meno 3 miliardi, adesso magari domani arriverà qualche decina di milioni di euro in più, e si va diretti su cosa? Si va diretti su probabilmente un consiglio di amministrazione che alzerà bandiera bianca, e a quel punto la palla passerà direttamente al governo. Il decreto è pronto, la copertura c'è, e quindi è probabile che nel giro di pochissimi minuti si passi dalla soluzione privata a quella pubblica. Sul decreto hai qualche indiscrezione? I termini di massima sono quelli di cui abbiamo letto e scritto in questi giorni, quindi l'intervento del capitale con l'aumento precauzionale. Il problema sono gli obbligazionisti, perché ci deve essere burden sharing, cioè condivisione del rischio, e quindi capire quanto sarà pesante il sacrificio che la richiesta degli obbligazionisti. Sì, anche la distinzione, come spiegavamo nei giorni scorsi, tra diciamo chi l'ha comprata per motivi speculativi questa obbligazione e non può certo essere considerato un risparmiatore poco avvezzo al rischio, e chi invece l'ha comprata nel 2008 convinto che fosse uno strumento sicuro con un profilo di rischio sbagliato in chi gliel'ha collocata, e quindi avrebbe diritto al ristoro. Non è facilissimo. Due risposte rapidissime a SMS e WhatsApp. Hanno ragione i dipendenti del Monte dei Paschi che dicono: guardate che insomma è un delirio, avete tutta la nostra solidarietà, non c'entrate nulla come dipendenti di Monte dei Paschi in quella che è la situazione attuale del Monte dei Paschi. Chi invece dice: ma insomma fate molto bla bla bla, odia Renzi, chi odia Renzi è una sua opinione, vabbè. I bla bla bla e le speculazioni, ragazzi, nessuno ha una certezza su niente, adesso non è che posso trasferirvi certezze e sicurezze che non abbiamo, né nella vicenda Monte dei Paschi, che conosce sviluppi nuovi di giorno in giorno, né nella vicenda Mediaset, che invece è proprio anche sull'orizzonte di come andrà a finire. Boh, io vorrei vedere qualcuno che con le idee chiare, lo invitiamo subito in trasmissione. Grazie intanto a Marco Ferrando. Dino, resta con noi. Traffico. Focus Economia. Si tratta di interventi temporanei e che quindi per questa ragione non hanno impatto sulle grandezze strutturali che, come è noto, sono quelle che contano ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità e crescita. Sono misure appunto one-off che prefigurano una ricapitalizzazione eventuale di alcuni istituti, una volta che, a condizione che questi eventuali istituti soggetti a ricapitalizzazione presentino piani di ristrutturazione che mettano questi istituti in condizione di essere, di viaggiare sulle proprie gambe, di essere profittevoli, di generare ricchezza, di finanziare l'economia. Così il ministro Padoan oggi su in aula alla Camera, misure one-off, no impatto sui saldi strutturali, poi ha aggiunto Padoan l'impatto sui risparmiatori sarà inesistente. Di misure one-off, Dino Pesole, scrivi anche tu oggi sul Sole 24 Ore, scostamento piccolo e temporaneo per aggirare i possibili rilievi europei. Cosa vuol dire misure one-off? Vuol dire sostanzialmente che in questo caso il governo ricorre a un maggiore indebitamento facendo conto che Bruxelles le riconosca come misure che sono attuate attraverso i canali che sono riconosciuti dalle regole europee, vale a dire che siano motivate da eventi eccezionali e dunque che siano temporanee e di piccola misura. Allora sulla piccola entità si può discutere, perché naturalmente 20 miliardi, che poi è la cifra massima, non è detto che poi sia tutta impegnata, e comunque non è propriamente uno scherzo. Sulla eccezionalità forse sì, tenendo conto che le regole europee prevedono che nel caso in cui si verifichi o un evento che può essere una catastrofe naturale oppure una grave crisi finanziaria che abbia, come dire, effetti possibili di turbativa per quanto riguarda l'intera economia di quel paese, e allora si possa fare ricorso a misure come questa che sono di carattere straordinario e dunque one-off, vale a dire una volta per tutte. Il punto è che di maggior debito trattasi, comunque la vogliamo mettere, maggior debito che andrà a aumentare il debito del 2017 presumibilmente. Ecco, e però scusami Dino, per come la capisco io, la misura one-off, cioè temporanea, devi avere anche la sicurezza, nel senso che a questo punto entrerà lo Stato, garantirà la parte mancante, quindi almeno 3 miliardi, magari qualcosa di meno. Ok, e come fai a sapere quando esci? Beh, allora, il one-off si qualifica in partenza, nel senso che il governo dice: io sono sicuro che questa operazione mette in sicurezza, perché il tema è solo Monte Paschi, perché l'entità... No, certo, anche Pop Vicenza e Vento Banca, per esempio. Ecco, appunto, quindi si mette in sicurezza, o meno, si prova a mettere in sicurezza l'intero sistema del credito, e dunque questo dovrebbe essere una garanzia. Non c'è nessuna sicurezza sul fatto della durata temporale, su questo hai assolutamente ragione, ma è la condizione necessaria, è fondamentale. Cioè, lo devi dire, fammi capire, Dino, lo devi raccontare all'Europa anche se non sei sicuro? Lo devi raccontare all'Europa, perché se non fosse così non verrebbe accettato. Allora, cioè uno dice: guardi, sarà una sveltina, poi boh, vediamo. Sarà un intervento, one off significa che si fa una volta sola, e questo evidentemente non può che essere così. Allora il punto è capire se basterà. No, adesso non vorrei precipitare nei temi elettivi del programma che ci segue, però dico sì, è una desiderata, lo facciamo una volta sola, serve a mettere in garanzia il Monte dei Paschi di Siena, però è sempre una promessa, ho capito bene? È sempre una promessa, e d'altro canto faccio osservare che questa è la sesta volta che i governi chiedono un'autorizzazione al Parlamento per far sì che i vincoli previsti dal nuovo articolo 1, vale a dire il cosiddetto pareggio di bilancio della Costituzione, siano in qualche modo disattesi. E lo si è fatto per circostanze eccezionali che attengono a una grave crisi, sto parlando della recessione, e poi a eventi eccezionali come terremoto, migranti, sicurezza. Ma infatti sono gli eventi, una tantum, io continuo a dire temporaneo, perché è chiaro che la battuta poi è: ma quando questi soldi, quando li rivedremo? Uno deve immaginare che a un certo momento il governo dica anche: a un certo momento riusciremo da questo, però che sia una tantum, e anche su questo è un desiderata, cioè noi diciamo che è una tantum, però come ricorda Dino Pesole non è la prima volta che diciamo che è una tantum. No, infatti non a caso per ben 6 volte si è detto ad esempio che le spese per migranti erano una tantum, poi sono diventate strutturali sostanzialmente. Il terremoto ci auguriamo tutti che sia una tantum. No, ma anche Monte dei Paschi ci auguriamo che sia una tantum. Per ora però sappiamo che c'è un fondo che dovrà intervenire sulla cattiva gestione del Monte dei Paschi di Siena da un lato e con estrema probabilità anche della Popolare di Vicenza e Veneto Banca dall'altro. Ecco perché potremo, come ricordavo, mettere nella nostra classifica, visto che i soldi a quel punto saranno anche pubblici. Grazie a Dino Peso. Dino, novità sul decreto? Perché prima Marco Ferrando diceva, insomma, come Monte dei Paschi dirà non ce l'abbiamo fatta a raccogliere sul mercato i soldi e in pochi minuti partirà il decreto. Risulta anche a te? Sì, esattamente. Immagino che il decreto sarà questione ormai di ore, tra domani e il massimo venerdì. I contenuti sono quelli che anticipava Ferrando, sostanzialmente si sta lavorando attorno a questi. Ovviamente si tratta di decidere, e già è stato deciso, il decreto serve a non far scattare il bail-in, questo è poi il punto di fondo. Il problema riguarda le garanzie, e su questo ci sono diverse versioni allo studio, ancora non conosciamo quale sarà quella definitiva. E aspettiamo, a questo punto aspettiamo il decreto. È vero, come tu ricordavi, che questo evita di far scattare il bail-in. Grazie anche a Dino Pesole. È veramente tutto per questa puntata. Un augurio di buona serata da Sebastiano Barisoni. Ci sentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. Libera la voglia di fare.